La mozione chiedeva che il Comune di Firenze si dotasse di un regolamento, diciamo così, per la finanza etica. Che significa questo? Un regolamento si chiama infatti sulla finanza etica, cioè vuol dire che le transazioni finanziarie del Comune di Firenze e dell'amministrazione tengono conto di alcuni criteri appunto etici nei punteggi, per esempio dei bandi di gara. Ecco, ora questo è un principio, diciamo, che è partito, il nucleo originario della mozione è questa, quindi l'impegno a fare un regolamento praticamente che privilegi gli istituti di credito che non hanno effettuato, no, queste, cioè che non abbiano transazioni bancarie in materia di, non so, esportazione, importazione, anche transito di armamenti, e naturalmente si richiama la legge 181. Quindi c'è un elenco, diciamo, ufficiale sulle banche etiche, tra virgolette, e allora noi abbiamo chiesto che queste venissero privilegiate. La cosa positiva è che poi è stato accolto invece un emendamento che amplia proprio questo, amplia questo concetto e quindi allarga, diciamo, un po' i criteri dell'eticità. Quindi non soltanto favorire questo tipo di banche, chiamiamole tra virgolette non armate, ma anche per esempio le banche che tengano conto dell'impatto ambientale dei progetti nei quali sono coinvolte, che tengano conto per esempio dello statuto dei lavoratori, delle norme antiriciclaggio, nelle loro appunto imprese e transazioni economiche. Insomma, un regolamento che è tutto da fare, ma che permette intanto di mettere, di coniugare questo concetto di etica con qualcosa di molto concreto come appunto la finanza. E qui c'è stato anche un bel dibattito in Consiglio Comunale proprio perché insomma su questo tema forse è bene riflettere, cioè l'etica non è qualcosa che riguarda una poche cose astratte, no? Irrealistiche o utopiche. L'etica è qualcosa che sempre di più noi dobbiamo vedere collegata invece alla prassi, alla pratica politica e tanto più, e ugualmente direi comunque, alla pratica economica, dell'economia.